6 settembre, martedì, e allora andiamo a vedere subito i titoli del Sole 24 Ore. Vola lo spread, crollano le borse europee, mentre per Repubblica lunedì di paura, allarme del Colle. Per La Stampa, borse a picco, tempesta sui BTP. Il Messaggero, misure più efficaci, questo è il virgolettato di Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, il monito di Napolitano. Mentre per Avvenire i conti non tornano, il Giornale titola l'euro affoga, la CGIL sciopera, mette dunque insieme le due notizie. Per il Secolo XIX servono misure più forti, mentre il Fatto Quotidiano, governo dei falliti, Napolitano, cambiare la manovra in Senato, misure più efficaci. Per Libero, lo sciopero rende poveri, CGIL e PD in piazza, mentre il Quotidiano Nazionale, e lei sciopera, e c'è la foto di Susanna Camusso in prima pagina. Il Manifesto invece mette la foto delle contestazioni ieri davanti alla borsa, fischio d'inizio, questo è il titolo, crollano le borse europee da Francoforte a Milano. Allora, la manovra è ovviamente, e soprattutto il crollo della borsa, sono i titoli principali, come vedete, ma intanto io vorrei andare a partire da alcune segnalazioni di altro taglio. Beh, la prima la trovo in prima pagina del Messaggero. Poi si dice che non c'è la crisi. Massimo D'Alema è costretto a vendere la sua barca a vela Icarus, mitica, che ha avuto tanti successi, ha partecipato a tante regate. D'Alema vende Icarus, Alberto Gentili in prima pagina del Messaggero, bye bye Icarus. Massimo D'Alema vende la sua amata barca a vela, una notizia che emerge inaspettata, pagina 282 del mensile specializzato Nautica. Poche righe che trasudano orgoglio, passione e segreti tecnici tenuti finora nascosti. Vendesi Icarus Sloop di 60 piedi, disegnato da Roberto Strakel. Starkel, costruzione in lamellare in mogano, di carbonio, in resina e possidica. Piano velico semifrazionato con albero in carbonio, pluripremiata imbarcazione per lunghe crociere veloci, coperta in tech, attrezzature Arken con winch elettrici, interni in ciliegio, 4 cabine e 3 bagni. Insomma, il meglio che si può trovare a veleggiare in mare. Perché dico, poi c'è la crisi. Pare che la decisione di Massimo D'Alema sia stata dovuta alla moglie, Linda Giuva. Una sorta di out-out, racconta il Messaggero, non ci possiamo permettere la barca e l'azienda agricola comprata da poco in Umbria contemporaneamente. O l'una o l'altra. E Massimo D'Alema ha messo in vendita la barca Icarus. Non si sa nulla del prezzo, c'è nell'annuncio semplicemente la barca sarà visionabile dai primi giorni di settembre. Quel che si sa, racconta al Messaggero, è che l'imbarcazione è assicurata per 750.000 euro e dunque dovrebbe essere quello il prezzo di partenza per la trattativa d'acquisto. Spero di trovare un acquirente, di questi tempi è difficile, sospira D'Alema. E allora D'Alema rinuncia al suo Icarus, momenti di difficoltà e di crisi. La seconda segnalazione la troviamo sulla Stampa, pagina 27, quelle ricerche davanti alle quali io storco un po' il naso, decisamente il naso, ma ci sono ricercatori che in tutto il mondo ricercano e facendo ricerche poi arrivano a delle conclusioni che vengono riprese anche poi dalla stampa mondiale. Dimmi quando sei nato e ti dirò chi diventerai. E non pensate subito ai segni zodiacali, non pensate agli astri che influiscono sulla vita di tutti noi, se ci credete. Secondo una ricerca inglese, il mese condiziona la personalità. Dunque non è questione di segni zodiacali che vanno a cavallo dei mesi, ma del mese, proprio il mese in cui siete nati. Egle Santolini ne parla, pagina 27. Allora, sappiate che più dentisti nati a dicembre, io infatti faccio il giornalista, però insomma, è una questione statistica, pur essendo nato a dicembre, più dirigenti d'azienda nati a giugno, gli assi dello sport sono soprattutto nati a settembre. Se avete qualche aspettativa sui figli futuri, insomma, contate meno 9 mesi e concepite di conseguenza. e aggiungo io, ma anche no, però se credete a questa cosa, eccola qui, la corrispondenza pare esserci. La percentuale per esempio di muratori nati a luglio è molto più alta che nel resto dell'anno, così come è più probabile che un fisico nasca a settembre più che negli altri mesi. Per chi festeggia il compleanno in ottobre ci sono più chance di vivere a lungo, mentre saranno contenti quelli nati a novembre, dove nasce il maggior numero di serial killer. Questa è la ricerca, cioè ci sono stati dei ricercatori pagati per fare questo tipo di ricerca. Dimmi quando sei nato, ti dirò chi diventerai. Questo è successo con una ricerca in Inghilterra. Ci fermiamo per la pubblicità. 24 mattino. Alle 7:33 minuti, allora continuiamo la lettura dei giornali in edicola. Come detto, le notizie più importanti che trovate sono la manovra, il giorno nero in borsa a Milano e non solo in Europa, e dunque i timori, il monito di Napolitano, e poi sulla vicenda anche Berlusconi e la vicenda Tarantini. Vi segnalo che Libero intervista Walter Lavitola, vale a dire l'ex editore dell'Avanti, che è latitante di fatto, si trova a Panama ed è stato raggiunto per la prima volta dalla sua versione, intervistato da Libero. In ogni caso, come detto, è una giornata nera, il crollo delle borse europee, questo a significare che certamente anche per quel che riguarda Milano, per esempio per quel che riguarda l'Italia, racconta il Sole 24 Ore a pagina 2, ora Moody's accende i fari sul debito italiano, non è certo un buon segnale, per usare un eufemismo, per quello che sta succedendo anche sul dibattito politico legato alla manovra. Insomma, racconta il Sole un'altra giornata nera per i listini europei, per lo spread BTP Bund tedeschi. Il differenziale tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi ha di nuovo superato i 370 punti. E tra l'altro il governatore di Banca Italia, Mario Draghi, colui che è designato a diventare il leader della BCE, ha avvertito: gli acquisti da parte della BCE non possono essere dati per scontati. E attenzione, è fuga dal rischio e vola lo spread, così racconta il Sole a pagina 3, la giornata di borsa raccontata da Luca Davi, con l'allarme dello spread sul mercato obbligazionario italiano, complice certo il lungo tira e molla sulla manovra di Ferragosto. Si riaccende e si nasconde un mix di motivazioni dietro a questo rally sullo spread. Certamente a pesare, racconta Davi, innanzitutto il timore che l'Italia non tenga fede agli impegni presi sul fronte del risanamento dei conti pubblici e del pareggio di bilancio, e dunque anche le incertezze che stanno segnando il percorso di approvazione della manovra finanziaria. Ma poi c'è questo monito molto duro, quello appunto di Mario Draghi, che in un convegno a Parigi, ne racconta Rossella Bocciarelli a pagina 5 del Sole, ha fatto notare questo. La BCE, come sappiamo, ha intrapreso interventi sul mercato obbligazionario col suo programma Securities Market per contribuire a ripristinare una trasmissione di politica monetaria più appropriata in un ambiente dove alcuni segmenti di mercato sono disfunzionali. La BCE insomma ha annunciato di comprare ricordate obbligazioni italiane per salvare questa situazione di difficoltà, ma, e qui c'è il monito, come osservato di recente Jean-Claude Trichet, non può essere utilizzato questo strumento per eludere la disciplina di bilancio. In altre parole, non deve essere dato per scontato dagli stati membri. Gli interventi della BCE non sono da dare per scontati, questo è l'allarme che proviene diretto dal governatore di Banca Italia Draghi. E poi l'altro allarme, l'altro monito molto urgente è arrivato dal capo dello Stato. Giorgio Napolitano ieri in serata, raccontano Marco Mobile e Marco Rogari a pagina 11 del Sole 24 Ore, ha fatto sentire la sua voce con parole inequivocabili, con il comunicato che recita così: nessuno può sottovalutare il segnale allarmante rappresentato dall'odierna impennata del differenziale tra le quotazioni dei titoli di debito pubblico italiano e quelli tedeschi, un segnale di persistente difficoltà a recuperare fiducia come indispensabile e urgente. Poi l'invito, l'appello di Napolitano a tutte le parti politiche perché sforzi rivolti a questo fine non vengano bloccati da incomprensioni e da pregiudiziali insostenibili. Insomma, il momento politico è anche molto difficile. Tra l'altro voglio segnalare oggi due editoriali, due commenti. Il primo è proprio in prima pagina del Sole 24 Ore del direttore Roberto Napoletano. È un editoriale molto duro, dal titolo «Il conto che l'Italia non può pagare». Scrive Napoletano: il peggio previsto si è puntualmente verificato, vale a dire il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi ha toccato il nuovo massimo da quando la Banca Centrale Europea ha cominciato a comprare i nostri titoli pubblici e quelli spagnoli. Ho ascoltato con le mie orecchie domenica a Cernobbio il ministro dell'economia Tremonti parlare per minuti interminabili di Waterloo, Vestfalia, Deauville, Versailles, davanti a un pubblico attonito che chiedeva risposte urgenti per curare il male italiano. Mi sono permesso di segnalare più volte che esiste un serissimo problema globale, ma insieme uno specifico, serissimo problema italiano che riguarda la credibilità della sua classe di governo, il senso di responsabilità dell'opposizione, dell'intera sua classe dirigente. Prima che non si possa fare più niente, scrive più avanti nell'editoriale Napoletano, prima che le banche italiane solide e liquide paghino ingiustamente il conto di un paese super indebitato, si ritrovi nei fatti lo spirito di coesione invocato dal Presidente della Repubblica, Napolitano, si dimostri di saperlo tradurre in scelte impopolari e in un'azione immediata e lungimirante. Se si è in grado di farlo, lo si faccia. Altrimenti si abbiano almeno l'onestà e la dignità di trarne le conseguenze. Il commento poi si conclude con un PS. Le nostre gravi debolezze non autorizzano nessuno, tantomeno la cancelliera Merkel, ad accostare con leggerezza l'Italia alla Grecia, perché questo ha fatto, pare, la cancelliera tedesca in un consesso privato di deputati, ha detto l'Italia di fatto è in una situazione simile a quella greca, che messa così soprattutto dal paese con la più forte crescita europea è un segnale che ci preoccupa alquanto. L'altro editoriale altrettanto duro non è firmato e quindi immagino attribuibile al direttore di Repubblica Ezio Mauro, dal titolo «Il paese da salvare», parla proprio del gesto inconsueto ma ormai necessario, quello del Presidente della Repubblica che ha preso direttamente in mano la gestione della crisi economica finanziaria. Un segnale di allarme gravissimo, un'assunzione di responsabilità al massimo livello. Ora non c'è più spazio per trucchi contabili e furbizie politiche. La linea è tracciata direttamente dal Quirinale. Proprio per questo non ci sono più alibi. Il governo corregga la manovra secondo le indicazioni del Quirinale al più presto e Berlusconi compia finalmente un atto di responsabilità annunciando fin d'ora che dopo l'approvazione della manovra si dimetterà perché ha dimostrato di non saper fronteggiare la crisi, lasciando il campo libero a un governo di salvezza nazionale. Così in prima pagina di Repubblica. In realtà ieri Berlusconi non ha parlato. C'è stato però, questo nel retroscena della politica, un incontro tra Tremonti e i leghisti, Bossi e Maroni. Questo in via Bellerio, la sede della Lega. Perché? La situazione appunto è molto grave politicamente e finanziariamente. E il pressing, qualcuno dice, del capo dello Stato è per ritoccare per esempio l'IVA, uno delle ipotesi che Berlusconi non ha neanche escluso. E soprattutto la questione pensioni, ma racconta il secolo XIX in questo incontro Tremonti, Bossi, Maroni, immagino anche Calderoli, Berlusconi avvisò il Colle sulle pensioni, Bossi non cede, cioè pare ci sia stata anche una telefonata di Berlusconi durante l'incontro tra Tremonti e Bossi per cercare di ammorbidire Bossi sulla questione pensioni, ritoccare le pensioni. Io ci ho provato ma ho le mani legate, avrebbe detto Berlusconi, non posso farci nulla se continuano a mettermi il bastone tra le ruote. Sapete che il mantra di Bossi e della Lega per tutta l'estate è le pensioni non si toccano. E anche su Repubblica, il retroscena di Francesco Beyer e Rodolfo Sala è questo: il cavaliere, l'incubo della trappola, ora pensioni e IVA o salta tutto. Ma c'è ovviamente il no da parte della Lega. Se la situazione dei mercati dovesse precipitare, secondo Repubblica avrebbe detto un ministro non ben qualificato, siamo pronti a intervenire aumentando l'IVA e l'età pensionabile. Anche di questo Giulio Tremonti avrebbe discusso ieri a via Bellerio con Bossi e Calderoli, iniziando a preparare l'anziano capo del Carroccio alla dura realtà dei conti, alla necessità di un intervento sulle pensioni d'anzianità. Ma bisognerà vedere se su questo Bossi cederà. Secondo Libero, rabbia Silvio, Tremonti è ancora leghista. Berlusconi resta in silenzio, studia i cambiamenti alla manovra, rimangono i sospetti sul titolare dell'economia che cancella gli interventi pubblici e si chiude in un vertice coi capi della Lega. E anche per il giornale, il pressing di Berlusconi sulle pensioni, ma Bossi non ne vuol sapere. E intanto oggi è il giorno dello sciopero generale della CGIL. Il giornale tuona, il costo dello stop sarà di 5 miliardi, c'è chi appoggia questo sciopero come Bersani, che ha detto, l'avete sentito anche nel giornale radio, certo saremo in piazza, anche il PD sarà in prima linea. Ieri il responsabile economico del partito Stefano Fassina ha rilasciato un comunicato molto duro. Irresponsabile lo sciopero, cioè i lavoratori? Irresponsabile il ministro Sacconi, che ha compiuto un atto di sabotaggio per finalità politiche e ideologiche con quell'articolo 8. Insomma, il clima, come vedete, è molto teso, e dunque la CGIL sciopera. Bonanni ha definito per la CISL demenziale questo sciopero, uno sciopero che, come ho ribadito anche in apertura, oggi comporta il fatto che alcuni quotidiani sono in ridotta foliazione, no? Sono in un'edizione ridotta, ma alcuni quotidiani non sono usciti del tutto. Uno è l'Unità e uno è il Corriere della Sera. Come detto, ne parleremo poi col suo direttore Ferruccio De Bortoli alle 8:30, perché ieri c'è stato anche questo editoriale in prima pagina in cui De Bortoli ha accusato la Camusso, leader della CGIL, a dire ci ha minacciato. Insomma, è una scelta dovuta a lei, il fatto personale, il fatto che il Corriere della Sera oggi non sia in edicola. Mentre a Monza, il comune di Monza, c'è una decisione singolare legata allo sciopero. Siccome hanno fatto uno sciopero entro qualche giorno fa, e non si possono, per una vecchia legge, fare due scioperi a distanza di meno di 10 giorni, e dunque oggi i dipendenti del comune di Monza che aderiscono allo sciopero non possono di fatto aderirvi. Allora, che cosa hanno fatto? Hanno pensato bene e penseranno bene di andare a lavorare con il lutto al braccio. Ne racconta il quotidiano nazionale Monza. Oggi è vietato scioperare in municipio con il lutto al braccio. È un problema procedurale che impedisce di far saltare la protesta e così si rispolvera la fascia nera. Questo è il comune di Monza. Come detto, la vicenda Tarantini arrestato, che coinvolge in quanto presunta vittima di un'estorsione il Presidente del Consiglio, anche oggi campeggia sui giornali, e ripartiremo da questo dopo il traffico, in particolare dall'intervista che Libero, unico quotidiano, ha fatto al latitante, perché di fatto è all'estero, sfuggito per ora all'arresto, Walter Lavitola. Prima vendo le barche e poi torno in Italia. E allora Walter Lavitola, uno dei tre arrestati per il quale è stato richiesto il mandato d'arresto, ma è all'estero e dunque latitante, parla per la prima volta a Libero. La vicenda è quella della Procura di Napoli, che ha appunto arrestato Giampaolo Tarantini, la di lui moglie, e Walter Lavitola. Tra l'altro si è scoperto dalle intercettazioni che era amante della moglie di Tarantini, quindi un classico triangolo. Lavitola però è all'estero. Cristiana Lodi per Libero lo raggiunge in prima pagina. Non me ne frega niente, non ce la faccio più a stare zitto, così esordisce Lavitola, che dice: non ho nulla da temere, presto tornerò. Presto quando? Presto, intanto sta all'estero ovviamente. Non mi importa di ciò che viene contestato dai magistrati di Napoli. Ciò che mi sta distruggendo è perdere la mia famiglia, mio figlio, mia moglie, a causa di questa indagine, le accuse infondate. Ma le pare che, dati i rapporti con Berlusconi, e dalle intercettazioni non mi pare se vinca il contrario, sarebbe stato mio interesse mettere insieme una truffa del genere, ovvero spillargli 500.000 euro per dividerli con Tarantini? Se avessi avuto bisogno di denaro, lo avrei chiesto direttamente al cavaliere. La verità? Ci ho rimesso in questa vicenda 173.000 euro. Sono pronto a documentare tutto. E poi dice: ecco i miei rapporti con la moglie di Tarantini. Mi sono lasciato inspiegabilmente prendere da sti due. 35 anni, perfino più immaturi della loro età, nei guai, con un tenore di vita non certo rispondente alle loro possibilità, visto che spendevano l'impossibile, e la moglie di Tarantini veniva a casa mia, una ragazza sommersa dai problemi, devastata dai guai giudiziari, mi faceva tenerezza, mi abbracciava e piangeva, veniva a casa mia e io le cucinavo coniglio e verdure. Insomma, era come se l'avessi adottata. Poi è nata una relazione, ma è assurdo e grave che questa circostanza sia stata resa pubblica e che mia moglie lo abbia saputo in questo modo. Io ho un figlio di 7 anni e colpire le persone nella vita privata è inaccettabile. Insomma, la Vitola confessa, allora dice a questo punto, la questione del triangolo amoroso è effettivamente uno dei lati, quasi lato diciamo più da pruderie di tutta questa vicenda. E poi, perché sono all'estero, devo vendere 2 barche, sono già stato dal notaio. Da 1 anno ho consegnato la documentazione, è un affare che tuttora sto chiudendo, e dunque vendo le barche e poi quando metterò piede in Italia, perché torno, so che il primo passo lo muoverò dentro una cella, e a quel punto sa cosa farò? Mi chiederò come vivranno mia moglie e mio figlio. Sono sicuro dell'esito positivo di questo processo perché sono innocente, ma intanto chi pensa a loro? L'ultima domanda è, ma scusi, lei dove si trova in questo momento? A Panama. Ma presto, tornerò. Insomma, parla Walter La Vitola per la prima volta su Libero, con Repubblica che fa sapere che, secondo i PM, anche l'avvocato di Berlusconi, Ghedini, sapeva dei pagamenti illeciti. Questa è la rivelazione secondo Repubblica, mentre secondo Repubblica stessa, ma anche secondo Il Giornale, dai verbali di Tarantini depositati si rischia davvero un vero e proprio terremoto nella Bari bene. Perché? Perché sentite i 2 titoli. Da Silvio, mogli di notai e avvocati. Giampi svela le intercettazioni. Shock. E anche Il Giornale. Tarantini fa tremare la sua Bari. Festini hard con le signore. Bene. Terremoto in città per le dichiarazioni di Giampi. Questa sarebbe il timore di Tarantini, terrorizzato secondo Repubblica, preoccupato dalle numerose intercettazioni tra lui e Silvio Berlusconi quando parlavano delle amiche che avrebbe portato a Palazzo Grazioli. E poi la vicenda, soprattutto dopo che usciranno questi verbali, ha detto Tarantini, mia moglie sicuramente mi lascerà. A dir la verità, avendo scoperto la tresca amorosa con la Vitola, insomma qualche problema con la moglie già c'era. Perché mi lascerà? Perché alcune di queste amiche sue che l'hanno abbandonata, in realtà, scrive Repubblica, erano amanti del marito. E poi però il terrore è questo di un coinvolgimento di mogli di notai, mogli di avvocati, mogli della Bari bene, che sarebbero coinvolte in tutta questa vicenda. Vabbè, andiamo oltre, qualche notizia di cronaca per chiudere. Che volete fare a un signore di 52 anni, Mauro Maggi, beccato, colui che ha devastato, il vandalo che ha devastato una scultura a Roma? Che si vuole fare? È uno che dichiara: volevo attenzione, l'ho fatto per farmi notare, mentre colpivo la fontana col sasso qualcuno è passato, mi ha visto e non mi ha fermato, e questo mi ha stupito molto. Il Messaggero titola: preso il vandalo di Piazza Navona, con questa dichiarazione che è disarmante, volevo solo attirare l'attenzione, per questo ha distrutto la fontana del Moro, una parte ovviamente della fontana del Moro, con delle sassate, volevo attirare attenzione sulla mia storia, per questo ho scelto la fontana più famosa. Mauro Maggi, 52 anni, romano, senza tetto, incensurato, è stato individuato grazie alle telecamere, alle immagini, soprattutto dalle scarpe da ginnastica, a fermare una pattuglia dei carabinieri con l'identikit elaborato grazie alle immagini delle videocamere. Ora la sua faccia e il suo quarto d'ora di celebrità l'ha ottenuto distruggendo uno dei monumenti preziosi di Roma e di tutti noi. Voglio chiudere con la questione del Giro della Padania. Ebbene sì, parte il Giro della Padania di ciclismo, bandiere rosse per il battesimo del Giro Padano. Ieri la sfidata delle squadre nel Cuneese, partecipa anche Ivan Basso, che dice vincerlo sarebbe un onore, E oggi voglio leggervi allora il buongiorno di Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa dal titolo «Presa in giro». Vi è mai successo di fare un sogno in cui le persone compiono gesti assurdi come se fossero normali e vi guardano come se i pazzi foste voi? Io, per esempio, dopo una peperonata, sognai un amico che scalava l'Everest in pigiama. Ma nemmeno tutte le peperonate del mondo riuscirebbero a partorire lo scenario surreale che si dipana davanti ai nostri occhi sbarrati, il giro ciclistico della Padania nel 150enario dell'Unità d'Italia. Autorizzato dalla Federazione del Ciclismo, finanziato dagli sponsor, corso da Ivan Basso e benedetto dal commissario tecnico della Nazionale Italiana. Il giro della Padania è un'idea di Bossi, anticipa la sceneggiata del dio Po, toccandone alcuni siti caratteristici. Se poi restasse qualche dubbio sulla paternità della peperonata, il primo della classifica generale indosserà una maglia verde. Ma il vero incubo è stata la reazione degli addetti ai lavori. Un dirigente ciclistico ha detto: c'è anche il Giro di Sardegna, ma non si scandalizza nessuno. Ho capito, ma la Sardegna esiste, sta nelle cartine geografiche. La Padania solo nella testa di una parte minoritaria di cittadini del nord. Vi raccomando poi la reazione dei politici locali del centrosinistra, che hanno negato il passaggio della Corsa Verde nelle province amministrate da loro, frapponendo impedimenti fasulli, scuse arzigogolate, mentre bastava dire: non vi facciamo passare perché la Padania non esiste, e quindi non esiste neanche il vostro giro secessionista, che va fermato per vilipendio dello Stato. Qualcuno avvisi il ministro degli interni. Sarà mica in bici anche lui? Questo Massimo Gramellini sulla Stampa. Allora, ci fermiamo qui con la rassegna stampa e poi ripartiremo. Ci sarà Vincenzo Visco alle 8:20 con noi e poi Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, alle 8:30.